Respiro. Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con Respiro. In vostra compagnia per oggi Paola Nania. Continuiamo insieme il nostro viaggio di avvicinamento a Ecopolis, settima tappa verso la fiera internazionale che si svolgerà a Roma dal 1 aprile al 3 di aprile e di cui Respiro sta anticipando i principali temi al centro dell'esposizione e dei convegni che vi aspettano alla fiera di Roma. Principio ispiratore, lo ricordiamo, il dibattito sulla città sostenibile, insomma più a misura d'uomo, in un momento in cui la metà della popolazione globale vive ormai in aree urbane. Nelle puntate precedenti abbiamo parlato di mobilità e risparmio idrico, di energie rinnovabili, di architettura ecosostenibile. Trovate tutto in archivio, vi ricordo il nostro sito è www.radio24.it. Vi segnalo anche il sito della fiera di Ecopolis che è www.ecopolis09.it. Oggi ci occupiamo di governance, vale a dire di governo della cosa pubblica che sappia essere innovativo, promuova politiche sostenibili, abbia un occhio di riguardo all'ambiente. E proprio di ambiente, di sostenibilità, di politiche ambientali abbiamo parlato con Filippo Bernocchi che è responsabile non per nulla di politiche ambientali dell'Associazione dei Comuni Italiani, vale a dire l'ANCI, che usa l'immagine di un'Italia a macchia di leopardo. Macchia di leopardo dove trovi delle eccellenze anche al sud. Sono due ordini di problemi. Il primo problema è di tipo culturale, cioè la cultura e l'attenzione all'ambiente è un titolo di giornale, però è un sentimento che anche dal punto di vista politico è forte solo da alcuni anni. In più, diciamo, fino a poco tempo fa era appannaggio soltanto di una parte politica. E secondo problema sono le competenze tecniche. Le competenze tecniche oggi all'interno dei comuni è molto difficile trovarlo perché settore ambiente è un settore in continua evoluzione. Anche dal punto di vista normativo le potrei citare mille esempi sui quali a cominciare dal riordino del Ronchi fatto da Matteoli che con un'opera pregevole ha risistemato tutto il codice dell'ambiente. Il codice dell'ambiente si pensava fosse un punto fermo, poi siamo ripartiti dal ministro Pecoraro che ha rivisto in gran parte il codice dell'ambiente rivisto dal ministro Pecoraro. Oggi il ministro Prestigiacomo ha chiesto la delega per rivedere quindi sostanzialmente è difficile anche fare un punto. Certo, quindi difficile orientarsi. È difficile orientarsi perché oggi c'è una cosa, domani non si sa se c'è, ecco, quindi questo è un problema. Quindi problema, difficoltà dal punto di vista normativo e difficoltà anche dal punto di vista della preparazione dei dirigenti, cioè qui ci vogliono delle figure che abbiano un'altissima specializzazione. Eppure allora, lei mi diceva esistono degli esempi ecco, di eccellenza. Cioè, esiste in Italia incredibilmente perché tutte le volte è una, diciamo, una scoperta piacevole. Scoperta piacevole. Dei comuni che vanno avanti in maniera forte. La scorsa settimana ero a Lecce, in Puglia, al sud d'Italia, quindi in Puglia stanno discutendo una centrale a biomasse, hanno impiantato una centrale eolica, uscirà tra poco un bando, mi diceva il sindaco di Lecce, uscirà tra poco un bando per valorizzare le coperture dei lastrici solari delle scuole impiantando del fotovoltaico, quindi diciamo quella lì è una realtà Lecce in Puglia dove io stesso mi sono stupito e altri tipi di realtà sensibili su questo ambiente in Puglia ce ne sono tante, anche perché diciamo lì sul fotovoltaico c'è una vocazione, insomma ci sono anche delle condizioni meteoclimatiche. Per esempio per quanto riguarda la Calabria, sono state impiantate diverse pale eoliche, lì c'è una sensibilità, una crescita per esempio, un'attenzione nei confronti dell'eolico, è una... Beh, la Calabria è una regione vocata perché lei sa che le pale eoliche devono girare X ore, almeno 2000-2500 ore l'anno e la Calabria è una regione vocata con tutti i problemi che può avere anche una regione come la regione Calabria, però anche lì cose ne stanno facendo, ecco. No, diciamo il sud sull'eolico e sul fotovoltaico si sta muovendo anche perché queste sono diciamo operazioni che fanno partner soggetti privati non è che vanno a mettere il fotovoltaico in Toscana a parte al sindaco il progetto lì a Scansano, oppure dove non ci sono queste condizioni climatiche necessarie e sufficienti per poter far girare il piano industriale di un impianto eolico, le vanno a impiantare, ecco, in realtà come queste, quindi anche in Calabria ci sono, ecco. Per equità, vogliamo raccontare un'esperienza positiva di governance sostenibile anche al nord? Perché abbiamo parlato del sud, allora no, spostiamo. Ma guardi, al nord ci sono la Lombardia e l'Alto Adige, siamo alle eccellenze, un po' quasi ovunque. L'Alto Adige perché ha una produzione da idroelettrico molto forte e quindi ha una vocazione all'idroelettrico che gli permette di arrivare a coprire il 40% di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Quindi quello che le voglio dire io è che ogni comune fa qualcosa. Il problema è che non c'è un sistema per cui si pensa, ma ogni comune qualcosa lo fa. Quindi cioè, sostanzialmente il tutto è lasciato alla volontà delle singole amministrazioni. Sì, molto sì. Molto sì. Questo quindi il quadro generale da nord a sud che ci ha consegnato Filippo Bernocchi, cioè il responsabile delle politiche ambientali per l'ANCI, per l'Associazione dei Comuni Italiani. Noi siamo andati a trovare un esempio di governance sostenibile, vale a dire le 7 sfide, così le chiama, che si è posta la provincia di Roma nell'arco della legislatura, quindi in 5 anni. Le sentiamo direttamente dalla voce del presidente della provincia, Nicola Zingaretti. La scelta è quella di non comprendere le politiche ambientali in un capitolo dell'agenda di governo, ma in realtà prevedere il tema dello sviluppo sostenibile in quelle che sono le politiche in molti campi dell'azione della provincia. E quindi in primo luogo il risparmio idrico e la qualità delle acque, sulle quali c'è un investimento massiccio nel triennio per oltre 300 milioni di euro sulla rete idrica e la rete fognaria. Poi c'è il secondo, il tema dello sviluppo delle energie alternative, dove sono previste tantissime iniziative, tra il supporto per il cambio delle caldaie, gli audit energetici per i comuni e per gli edifici pubblici in collaborazione con la Fondazione Clinton, c'è il progetto Scuole per Kyoto per promuovere il risparmio energetico nelle scuole, abbiamo fatto un bando per far passare il riscaldamento e l'illuminazione degli istituti pubblici al fotovoltaico a costo zero per l'amministrazione. Poi terzo c'è il grande tema dei rifiuti. Noi abbiamo messo in campo un grande progetto e piano per passare via via che nel corso degli anni alla raccolta differenziata porta a porta. 5 mesi fa abbiamo iniziato, erano 20.000 gli abitanti che facevano il porta a porta in provincia, oggi sono oltre 100.000, diventeranno 1 milione entro cinque anni. 5 anni che poi, se non sbaglio, è il raggio che comprende, che copre il vostro piano, le 7 grandi sfide all'interno proprio dei 5 anni. La mia legislatura, poi dopo andremo al voto e se i cittadini vorranno ce ne saranno altri 5, quindi sono gli obiettivi che noi ci diamo in questo mandato, almeno abbiamo definito da qua alla fine mandato gli obiettivi che ci diamo. Poi c'è la pianificazione territoriale, c'è il piano territoriale provinciale generale che indica ai piani regolatori dei comuni quali sono le aree di sviluppo del territorio con un'attenzione particolare al tema appunto della difesa del territorio. Il quinto riguarda il tema della mobilità, noi abbiamo fatto una grande opzione per il trasporto pubblico e quindi la volontà di costruire dei corridoi della mobilità, cioè strade riservate solo al mezzo pubblico, scommetteremo sul potenziamento anche in provincia delle piste ciclabili come congiungimento di aree e di promozione di un turismo e di una possibilità di muoversi alternativo, c'è un poderoso piano parcheggi particolar modo collocati nei nodi di scambio per l'ingresso alla città che può rendere più facile l'utilizzo del mezzo pubblico e poi il ferro. Noi abbiamo messo in campo un intervento di diversi milioni di euro per rimuovere i passaggi a livello sulle linee ferroviarie. Questo aiuterà una maggiore frequenza nel passaggio dei treni e quindi andrà incontro ai disagi dei pendolari e comunque potenzierà l'idea dell'utilizzo del trasporto pubblico su ferro come possibilità per entrare e uscire da Roma. Insomma, un piano di sviluppo sostenibile abbastanza importante. Quanti finanziamenti prevedete? Beh, in totale noi abbiamo una cifra che supera, anche se di poco, i 400 milioni di euro, ma anche produce grandi risparmi. Ad esempio, una delle pratiche, gli acquisti pubblici verdi, una rivoluzione per l'amministrazione provinciale. Abbiamo cominciato dalle automobili, cambiando il parco macchine da diesel a GPL con un risparmio, abbiamo ridotto le fotocopiatrici, compriamo stampanti bianche e volta, i mobili che acquistiamo da ora sono tutti mobili prodotti con legno riciclato, e solo queste pratiche, valutiamo, porteranno risparmi, ad esempio all'amministrazione, per decine di migliaia di euro. Sono politiche che non solo non costano, ma aiutano l'amministrazione a spendere meno. E voi prevedete anche di produrre parecchi posti di lavoro? Ovviamente questi investimenti, soprattutto nel campo impiantistico, ad esempio sui rifiuti o sul fotovoltaico, sono sostegno all'impresa, perché può, da questa capacità di intervento sull'economia, si può generare uno sviluppo appunto sostenibile, perché ad esempio fare raccolta differenziata significa costruire e impiantare gli ecoimpianti sul territorio e quindi produrre lavoro, sì. Voi parteciperete ad Ecopolis proprio per dimostrare che una città, un ambiente sostenibile è possibile? Non solo è possibile, questo lo sapevamo da tempo. Ora la novità è che è un atto dovuto e anche utile, perché è una risposta alla crisi economica che abbiamo davanti e un'opportunità di sviluppo. È una grande novità che molte imprese hanno compreso da tempo e che una pubblica amministrazione moderna che guarda al futuro non può non vedere. Respiro. Buon pomeriggio, ben ritrovati da Paola Nania. Dopo la pausa proseguiamo parlando ancora di governance e politiche sostenibili, uno dei temi che saranno approfonditi durante Ecopolis, la fiera che si terrà a Roma dall'1 al 3 aprile, dedicata alla città sostenibile e a cui ci stiamo avvicinando con una serie di tappe di respiro dedicate proprio ad alcuni degli argomenti sviluppati durante la fiera romana. Abbiamo parlato di politiche ambientali nella prima parte della trasmissione. Ora ci concentriamo sulla gestione virtuosa dei rifiuti. Non meravigliatevi, perché accanto all'emergenza ci sono anche degli esempi positivi, a cui è dedicato tra l'altro il rapporto di Legambiente pubblicato pochi giorni fa, si chiama Ambiente Italia 2009. Allora ascoltiamo cosa ci ha detto a proposito della gestione virtuosa dei rifiuti il responsabile scientifico dell'associazione di Legambiente, Stefano Ciafani. Paradossalmente questa è una cosa poco conosciuta. Nel nostro paese ci sono esperienze all'avanguardia, esperienze di cui possiamo vantarci anche in ambito internazionale. Una buona gestione, insomma. Assolutamente, insomma, quell'Italia di qualità che viene raccontata sempre a proposito dei prodotti tipici, che esiste a proposito di innovazione tecnologica nella piccola e media impresa, esiste anche nella gestione dei rifiuti. Raccontiamo delle esperienze dei 1081 comuni ricicloni premiati a livello nazionale, quindi sostanzialmente un comune su sette, per aver superato l'obiettivo minimo di raccolta differenziale, il 40% previsto dalla legge. Di questi, insomma, 118 sono in Campania. Ci sono in Campania esperienze clamorose come quella del comune di Salerno, un comune di 150.000 abitanti, che oggi fanno raccolta differenziata porta a porta su 100.000 abitanti, su questi 100.000 abitanti, facendo una raccolta differenziata porta a porta sia per gli imballaggi che per la parte organica, si è raggiunta una percentuale dell'80%, ritenuta impensabile non solo fino a qualche anno fa, non solo nel sud Italia, ma anche in un capoluogo di provincia. Raccontiamo anche, non so, delle esperienze dei consorzi per il recupero dei rifiuti, del CONAI piuttosto che dei consorzi di filiera sugli imballaggi, del consorzio sugli oli usati o le batterie, piuttosto che del consorzio che produce compost di qualità. Allora, sugli imballaggi abbiamo raggiunto in anticipo, rispetto alle scadenze della direttiva europea, le modalità di gli obiettivi di raccolta differenziata e recupero le sei tipologie di imballaggi. Sugli oli usati e le batterie, i consorzi raggiungono una percentuale di raccolta differenziata superiore al 90% rispetto al raccoglibile, così come nel settore del compost di qualità, il CIC, il Consorzio Italiano Compostatori, produce 1,2 milioni di tonnellate di compost che è interamente assorbito dal mercato, sia quello della florovivaistica che dal mercato dell'agricoltura. Quindi, insomma, sono esperienze di cui possiamo vantarci finalmente, che sono poco conosciute, ed è per questo che Legambiente quest'anno racconta quelli che sono, abbiamo definito, i rifiuti made in Italy, Italy, che sono un qualcosa che possiamo tranquillamente, anzi l'augurio è proprio che possano replicare questi modelli in tutta Italia e poi, perché no, anche esportare il modello di buona gestione dei rifiuti italiani. Ecco, ci sono esperienze positive nel meridione, ma c'è anche una regione che colpisce per i passi in avanti che ha fatto, stiamo parlando della Sardegna. Perché? Ce lo vuoi spiegare? Voi ne parlate nel rapporto Ambiente Italia 2009. La Sardegna è proprio una di quelle regioni in cui, in seguito alla politica dell'amministrazione regionale, si sono indirizzate le modalità di gestione dei rifiuti organizzate dai comuni verso i sistemi migliori, sistemi domiciliari, facendo la raccolta sia degli imballaggi, quindi la frazione secca, sia dell'organico, l'umido domestico. Ecco, in Sardegna, la Sardegna nel 2002 era l'ultima regione in Italia per raccolta differenziata, aveva una percentuale del 3%, nel dicembre 2008, quindi dopo soli 6 anni, la regione Sardegna era arrivata a il 38% e in soli 6 anni la Sardegna ha fatto quello che la Lombardia o il Veneto sono riusciti a fare in 15. Questo perché non ci si deve inventare nulla, basta replicare i modelli che sono stati applicati con successo nel nord Italia già dalla metà degli anni 90, e quindi se i governatori, i presidenti delle regioni indirizzano, gli assessori regionali all'ambiente indirizzano la politica penalizzando economicamente la discarica e promuovendo il passaggio dei comuni dal sistema di raccolta differenziata a cassonetti al sistema di raccolta differenziata domiciliare, insomma le percentuali di raccolta differenziata aumentano velocemente, e poi ovviamente parallelamente a questo le regioni devono anche facilitare la costruzione degli impianti per riciclare i rifiuti, a partire dagli impianti di compostaggio, che sono fondamentali per poter finalizzare e quindi evitare che poi l'organico raccolto in maniera differenziata poi non possa essere portato in nessun impianto di riciclaggio, ma invece deve essere, come dire, compostato per produrre quel compost di qualità che poi viene venduto nel mercato della florovivaistica o in agricoltura. Queste tra l'altro sono alcune delle, come dire, delle proposte che Legambiente pone alla politica per risolvere e superare l'emergenza rifiuti. Ce ne sono altre, oltre per esempio a penalizzare la discarica. Sì, diciamo, sulla la discarica è la prima proposta di questo decalogo che abbiamo preparato per presentare Ambiente Italia 2009. Bisogna aumentare il costo della discarica, perché fino a che la discarica continua ad essere l'opzione più economica, soprattutto al sud, tra l'altro. Esatto, il problema riguarda soprattutto il centro-sud. Ci sono alcune discariche nel centro-sud che costano ancora qualche decina di euro per tonnellata di rifiuto conferito, e questo prezzo così basso ovviamente non garantisce nessuna alternativa, quindi né il riciclaggio né tantomeno il recupero energetico. Dopodiché un'altra proposta che facciamo è quella di replicare in tutti i comuni l'esperienza delle raccolte porta a porta. Occorre favorire la qualità della raccolta differenziata. Si è sempre parlato di percentuali e di quantità di raccolta differenziata. Bisogna fare in modo che quello che viene raccolto sia di buona qualità, sia di ottima qualità, per favorire il successivo riciclaggio. Bisogna garantire certezza normativa a questo paese. Cioè, il problema è che ad ogni governo si modifica la legge sulla gestione dei rifiuti, e questo è successo nel 2001, è successo nel 2006, è successo nel 2008, sta succedendo di nuovo in Parlamento. Non tranquillizza, anzi spaventa gli operatori, ma spaventa anche gli ambientalisti, perché si devono dare regole certe. Dalla voce di Ciofani, responsabile scientifico di Legambiente, abbiamo sentito di oasi di qualità nella gestione di rifiuti anche in maniera inaspettata in Campania, una delle regioni più vessate dalla crisi dei rifiuti, dall'emergenza rifiuti. Non solo la Campania, sono state 5 le regioni commissariate, soprattutto al sud, per esempio la Calabria, per esempio la Sicilia e il Lazio. Allora, abbiamo chiesto il segreto del successo inaspettato, dicevamo, a Ferdinando Primiano, che è sindaco di un piccolo paese, si chiama Casa Marciano, è in provincia di Napoli. Casa Marciano ha superato il 50% di raccolta differenziata. Noi facciamo da diversi anni, possiamo dire dal 2004, dal 2005, facciamo la raccolta differenziata porta a porta. Quindi non è una percentuale che abbiamo raggiunto nell'ultimo periodo. Come hanno reagito i cittadini alla cosa? Hanno apprezzato? Hanno avuto delle difficoltà? Erano annoiati dall'iniziativa? Allora, dottoressa, il porta a porta diventa una necessità. Nel momento in cui, se ai cassonetti che noi abbiamo distribuito sul territorio, che sarebbe la parte alternativa al porta a porta, perché o si fa porta a porta per individuare quel tipo di rifiuto, chi è che precisamente lo ha messo in strada, in alternativa ci sono i cassonetti. Quando i cassonetti sono diventati ricettacolo di tutto e di più, oppure quei cassonetti erano il ricettacolo di cittadini di comuni limitrofi che non facevano la differenziata e quindi si univano in modo indiscriminato, è evidente che il cassonetto diventa una necessità eliminarlo. Quindi a Casa Marciano niente cassonetti? Quindi a Casa Marciano niente cassonetti, così come non dovrebbero starci cassonetti dove si va porta a porta. Senta, secondo lei come mai un paese quanti abitanti ha Casa Marciano? Casa Marciano ha 3.500 abitanti. Perché Casa Marciano, in una realtà come la Campania, che è in difficoltà, come sappiamo bene, per i rifiuti, perché Casa Marciano è riuscita invece a essere una punta di eccellenza in fondo? La raccolta differenziata è la soluzione proprio nel momento di emergenza. Cioè, quando c'è la massima emergenza, se vogliamo superare, io ho superato l'emergenza diventando con l'eccellenza la soluzione. Cioè, mi spiego, se noi abbiamo la plastica dove portarlo, abbiamo l'alluminio dove portarlo, abbiamo la carta dove portarlo, abbiamo tutto, che il circuito esiste. Quindi, perché? Insomma, è una questione di volontà, secondo lei? È questione di volontà, ma poi di farla anche condividere alla popolazione attraverso interventi nella scuola, fare dei progetti con gli insegnanti, con i ragazzi. Cioè, educare. Far capire che il rifiuto non è tale, ma può essere riutilizzato, è una risorsa, diventa una materia prima. Non dobbiamo fare in modo che tutto venga portato in discarica, perché è una perdita di risorse enormi. L'esempio più semplice che facciamo è che la plastica è richiestissima, la compriamo fuori regione quando la possiamo recuperare nel nostro riciclo, nel nostro riuso, e invece che facciamo? La andiamo poi a sotterrare in una discarica. È la cosa più assurda che possiamo consentirci. La popolazione, i cittadini di Casa Marciano hanno reagito bene, sono stati educati alla raccolta differenziata? I cittadini all'inizio, è evidente che quando l'amministrazione è partita ha impiegato 2-3 mesi per organizzarsi, però l'organizzazione significa coinvolgere tutte le forme associative, dalla scuola, che è la prima forma nella quale lei trova un interlocutore, attraverso gli alunni si raggiungono buona parte delle famiglie, poi attraverso le comunità, le associazioni, le proloco, tutte le attività devono essere svolte in tutte le forme associative e soprattutto però fare un percorso di condivisione, cioè capire che è l'unico percorso che non soltanto può far tenere pulito il nostro paese, quindi una qualità ambientale, ma è anche un discorso economico, perché quelle sono risorse, sono materie prime, le quali non vanno assolutamente disperse, sotterrate, ma vanno recuperate come proprio una strategia che dobbiamo darci in un momento in cui c'è una grave crisi economica. Questa puntata si chiude qui, l'appuntamento è per sabato prossimo, sempre alle 16.30, vi ricordo anche la replica domani, domenica alle 14, che va in forma ridotta. Vi ricordo infine il sito su cui potete trovare le puntate di Respiro, il sito di Radio 24, www.radio24.it. Ringrazio in regia Alessandro Chiappini, un saluto da Paola Nania.